In scena si alza il sipario sui 103.1 per l'ottava edizione di Agorà, sabato 23 marzo nella sala polivalente in via Galliera Sud 95 a San Pietro in Casale. Come ben sapete e spesso ripeto, l'attenzione per il nostro territorio di pianura, teatro con Agorà, con tanto amore. Mario è il titolo di questo lavoro di e con Paola Tintinelli, una produzione a Astorri. Tintinelli è un delicato quadro di semplice e profonda umanità. Racconta la storia di un personaggio nella quale chiunque può riconoscere oggetti quotidiani, gesti minimali e momenti da condividere, introspettivi e assolutamente semplici, ma allo stesso tempo, se vogliamo, anche con qualche particolarità. Si ispira al mimo, al circo teatro, al cinema muto. Queste le particolarità. A Giulietta Masina, la strada, i clown di Federico Fellini, è un immaginario dove trovano posto anche Miracolo a Milano, il giudizio universale del grande Vittorio De Sica, Totò, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Beckett. Insomma, Mario è un nome comune per un uomo comune. Mario è un ex postino che vive il momento finale della vita, o forse da fine ad una vita per ricominciarne un'altra nuova, ovviamente con tanto amore. È uno spettacolo muto, è uno spettacolo in bianco e nero, è già andato in scena in grandi e piccoli teatri d'Italia, all'Università Occupata di Bologna, in un garage a Sesto, in un'osteria di Roma, in una cascina a Stradella, oppure in altri diversi posti che, appunto, seppur in maniera eterogenea, riportano questa capacità di una vita semplice, di un adattamento, dove l'originalità e la particolarità sta appunto nella rappresentazione, il mimo, il circo teatro, lo stesso cinema muto. Il titolo richiama una canzone di Mario Abbate che echeggia insieme alle canzoni di Iannacci da una radio che, pensate, trasmette le previsioni del tempo. Stacco musicale, poi rientriamo e continueremo la presentazione di questo lavoro che sarà domani alla Sala Polivalente di via Galliera Sud 95, sabato 23 marzo ovviamente 2024 alle ore 21, con tanto amore. Mario di e con Paola Tintinelli. Bello, no? Mancava anche questo saltellare. E allora cerchiamo di procedere nell'ascolto e vediamo se dobbiamo sostituire direttamente o possiamo permetterci da capo un altro stacco musicale. Intanto con la rubrica In Scena stiamo seguendo la stagione Agorà, che è arrivata all'ottava edizione. Anzi, correggo anche per la fretta il nome di Paola, il cognome di Paola, che non è Tintinelli ma è Tintinelli. Scusa Paola. Definirei spettacolo, scrive l'autrice, è come un block notes con annotazioni di problemi brucianti, di idee, scoperte, invenzioni, progetti, concezioni, partiture, materiali, attività parallele, lettere, giornali, calendari, indirizzi, date, mappe di viaggio, incontri. La storia è una storia, mille storie, la mia storia. Il luogo è una stanza, un angolo di una strada, un armadietto, l'anticamera della morte. Già ne ho data ampia presentazione, però avere la voce della protagonista qui con noi, anche seppur per qualche minuto, è sempre indiscutibilmente un valore aggiunto. Per cui do il buongiorno a Paola Tintinelli. Buongiorno Paola. Buongiorno a voi, scusate che... Grazie comunque. Con tutto che mi sono svegliata alle 6:30 pensa, stamattina, tutta... pensa. Però niente, ero così distratta. Tanta fatica per niente. Invece, no, e invece sarà un valore aggiunto questo tuo corredo, ecco, per quello che io ho già detto nella sinossi dello spettacolo. Allora, con te parliamo di emozioni. Perché questa idea? Emozioni, perché se non ci si emoziona è finita, sì, cioè, per me è, diciamo, la base della vita, non tanto è perché vuol dire che si vive, no? Sì, perché credo un po', se no... Questo sono gli ultimi, insomma, si può dire, da quello che ho trovato, è un aspetto, sì, se vogliamo, anche di quotidianità, però vissuta in un segmento molto particolare, un'idea di continuità, un'idea di attraversare il fiume per poi trovarsi sull'altra sponda per una continuità. Quindi le emozioni sono tante, assolutamente. Sì. E sì, poi, sì, la modalità di spettacolo che ho letto con Mimo, Circo Teatro, Cinema Muto, ispirazione da Giulietta Masina, poi Il Lavoro, La Strada, I Clown di Federico Fellini, insomma, come è venuta questa idea di portare con queste modalità e con tanto amore Mario, ti chiedo Paola. Ma perché, vabbè, un po' è l'osservazione proprio per le strade, cioè osservazione, cioè vivere e vedere le persone come si muovono, come elevare le parole. Io mi sono detta, non ho parole nuove, prendo parole belle che sono già state scritte, perché in questo spettacolo c'è una radio che ci accompagna. Bene. Sì. Mi sono ispirata molto alla canzone di Mario di Iannacci, Mario si intitola la canzone, che appunto racconta di questa persona semplice. È una persona normale, infatti io ho chiamato Mario, nome comune per uomo comune, che poi anche qui non è un uomo, cioè non è raccontata come uomo maschio, ma è uomo come persona. Sì, come persona nel senso più grande. E quindi niente, sono innamorata del cinema muto, infatti io non dico mai che è mimo, perché mimo è un altro lavoro che non sono neanche tanto brava a fare, ma è proprio muto, cioè, senza parole. Sì. Perché e quindi ho preferito, cioè, è un piccolo racconto, diciamo in breve, che poi dico la fine, ma l'ultima giornata della vita. Sì. Ma potrebbe essere anche l'ultima giornata per iniziarne un'altra, cioè potrebbe essere alla fine è un grosso cambiamento che potrebbe venire, come potrebbe finire, cioè finire. Quindi di emozioni direi proprio tante, nella sì, sì. Maniera più estesa che può essere. Sì, poi mi piace dire che è vita semplice, emozioni semplici nel senso non c'è da capire, è proprio aprire e guardarci, magari ritrovarsi un po' o certo allontanarsi, ma sì. Ed è domani alle ore 21, sala polivalente, la rassegna Agorà è giunta all'ottava edizione, sarà nella sala polivalente di San Pietro in Casale in via Galliera Sud 95. Questo che porta con tanto amore Mario, da cui l'ispirazione anche alcuni attori, artisti che abbiamo citato nella nostra conversazione e nella mia precedente presentazione. Insomma, aggiungo anche che oltre l'originalità dell'idea ci mancherebbe, ma sarei da sola sul palcoscenico? Sì, sì. Ok. Con una giradischi, diciamo, e una tromba. In buona compagnia, ok, ho capito. Ma quindi l'aspetto minimale, anche se vogliamo, questo. Guarda, quando ho incominciato a farlo perché volevo che potesse andare ovunque. Certo, infatti è stato ovunque. Come è stato ovunque? Ho letto, sì, come è stato ovunque. Perché si porta dietro la sua casa, ogni posto è un angolo di casa, diciamo. Parliamo anche della produzione a Astor Tintinelli? Sì, sì, con Astor abbiamo fatto veramente un pezzo di vita importante. Ci siamo veramente, insomma, è stato molto bello. Adesso non è, cioè, per adesso ci siamo fermati nel 2021. E chissà, ogni tanto diciamo ok, ma chissà se abbiamo, però bisogna avere proprio la necessità di riprendere, se no è così, è finita così. Però abbiamo fatto veramente 20 anni di spettacoli, ma di questo ovunque. Sia motivo di una non ripartenza, ma partenza, come appunto troviamo nel lavoro con tanto amore, sì, infatti. Mario, che non sia una ripartenza, ma sia una nuova partenza. È bravo, è una rinascita, comunque una nascita, è un momento, perché a volte bisogna, è pauroso, no? Attaccare, cioè cambiare. Molto. Cambiamento, certo. È sì. Proprio pauroso, ti fa oddio, perché non sai. Ma in fondo è questa la vita, no? Non lo sai, tanto non lo sai mai. Ma del resto la paura, secondo me, è anche quella che alla fine ti spinge, perché la paura è la nostra migliore alleata. Certo. Quindi è quella che ti dà anche la spinta, se vogliamo. Per cui... Certo, e poi in un tempo come questo, in cui esattamente, veramente esattamente, secondo me è proprio confermo. Importante guardarsi, vedersi. Quanto arriva dal teatro, dall'arte, dalla letteratura, certo, dalla musica, dalle espressioni artistiche appunto che possono parlare, rivolgersi. E dagli artigiani, io dico sempre. Certo, assolutamente. Perché e fanno è un poesia. Artigianale io anche, dico, no? Gli artigiani fanno poesia. E con capito. Tanto amore, Mario, di e con Paola Tintinelli, che siamo riusciti a recuperare, per cui io ti ringrazio tantissimo. Evviva! A domani, sabato 23 marzo alle ore 21, via Galliera Sud 95, San Pietro in Casale, per l'ottava edizione della stagione Agorà con tanto amore, Mario. Grazie Paola, io ti auguro grazie buona giornata. Grazie a te. Puoi prendere scusa il ancora. Secondo caffè adesso. Grazie, ciao. Grazie. Un comprensibile ritardo di qualche minuto che mi ha portato a dare presentazione della sinossi e il disco che è saltellante, poi alla fine ce l'abbiamo fatta grazie alla stagione Agorà, lo spettacolo con tanto amore Mario di e con Paola Tintinelli, che abbiamo finalmente poi contattato e portata in frequenza per la rubrica In Scena di oggi 22 marzo 2024. Ovviamente è un venerdì, un po' di musica, poi si ritorna, continueremo con teatro e musica in questo caso per dare una continuità al nostro format e anche collegandoci con quello che sarà il venerdì in jazz con Jazz Live, che ben sapete 11.30 alle 12.30 porterà a conclusione la nostra mattinata. A tra poco.